GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona Epifania dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. Neve e soprattutto pioggia anche in montagna, un'Epifania condizionata dal maltempo, con tanti riti ed appuntamenti cancellati o rinviati, e in montagna tante piste chiuse perché trasformate in pozzanghere e quindi impraticabili. Ed è importante tener conto del pericolo valanghe. Esattamente come da previsioni, il maltempo rovina l'Epifania in Friuli Venezia Giulia. Dal mare alla montagna, ovunque precipitazioni anche abbondanti, neve sopra i 1000 metri all'incirca. Per la montagna, la coda di vacanze natalizie contrassegnate da temperature sopra la media, ma secondo Diego Bellotto di Confcommercio Tarvisio, con risultati non deludenti. Anzi, in linea con l'anno passato, o meglio ancora, almeno per il settore alberghiero. Oggi diverse le piste chiuse perché impraticabili, e quelle aperte non sono state certamente prese d'assalto con questo meteo. Massima attenzione al pericolo valanghe. C'è un rischio di 3 su 5 valutato nelle quote maggiori, ma nella zona attorno a Sella Nevea il rischio sale a 4 su 5, il più alto nell'intero arco alpino italiano. Parliamo del complesso del Canin e del Montasio, dove sono fortemente sconsigliate attività sportive invernali oggi e domani, quando il tempo sarà migliore. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E diamo uno sguardo al tempo, cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi, a Gorizia 11 gradi, Udine 10 gradi e 5 decimi, Pordenone 10 gradi, a Tolmezzo 3 gradi, Forni di Sopra 0 gradi, Tarvisio 1 grado, Sappada 5 decimi di grado sopra lo zero, Piancavallo 2 gradi e mezzo, sul Monte Lussari meno 1 grado e 5 decimi, sul Monte Zoncolan meno 1 grado, a Grado 12 gradi, a Lignano 11 gradi. Le previsioni parlano di cielo coperto con precipitazioni abbondanti o localmente intense. La quota neve sarà a circa 800-1000 metri sulle Alpi, anche fino a Fondovalle nel Tarvisiano, 1200-1500 metri sulle Prealpi, ma con possibili nevicate a quote più basse nelle vallate più interne. Venti moderati da sud-est sulla costa, da nord-est in pianura e bora sostenuta dalla sera. Sono quasi 34.000 in Friuli Venezia Giulia le famiglie con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Si tratta del 18% del totale. Fra esse 4.600 hanno un ISEE pari a zero. Nel 2022 in Friuli Venezia Giulia le famiglie che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, sono state oltre 183.000, 17.300 in più rispetto all'anno precedente, a cui corrispondono quasi 517.000 residenti, il 43,3% della popolazione totale. Le famiglie che in regione presentano una situazione più critica con un ISEE inferiore ai 6.000 euro sono quasi 34.000 e costituiscono il 18,4% del totale. Le persone che in regione vivono in nuclei con un ISEE inferiore ai 6.000 euro sono poco meno di 77.000, pari al 6,4% della popolazione residente. Il ricercatore dell'IRES, Alessandro Russo. Per quanto riguarda la composizione di queste famiglie, una su quattro è costituita da una sola persona, ma se consideriamo quelle sotto i 6.000 euro di ISEE, questa percentuale sale al 45%. In provincia di Trieste la sofferenza maggiore, con il 25% delle famiglie con ISEE sotto i 6.000 euro, mentre nel pordenonese si rileva l'incidenza più bassa del 13,8%. La soglia massima dei 6.000 euro di ISEE è uno dei requisiti per accedere al supporto per la formazione e il lavoro, una misura che permette la partecipazione a percorsi di formazione, riqualificazione professionale e progetti utili alla collettività, misura che interessa molte famiglie che erano beneficiarie del reddito di cittadinanza e prevede un beneficio economico di 350 euro al mese. La media dell'ISEE in regione nel 2022 era pari a circa 18.000 euro, a Pordenone e Udine i valori più elevati, nella Venezia Giulia quelli più bassi. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'omelia in occasione dell'Epifania e della Festa dei Popoli, il vescovo di Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, ha fatto cenno alla situazione di emergenza rispetto all'accoglienza dei migranti e dei senza dimora in città. Qualche mese fa le istituzioni più rappresentative del territorio si sono ritrovate e con l'apporto di tutti siamo giunti ad un piano di accoglienza. Ringrazio in particolare la comunità missionaria di Villaregia che ha messo a disposizione parte del suo fabbricato, ha detto Monsignor Pellegrini durante la messa di stamattina nel Duomo di Pordenone. Sembrava tutto filar liscio, ma alcune difficoltà burocratiche che si pensava di poter risolvere per deroga ad alcuni adempimenti, visto che siamo in una situazione di emergenza, stanno rallentando i tempi dell'accoglienza. Invito perciò tutti con forza ad avere un po' più di coraggio insieme perché i nostri fratelli migranti possano essere accolti subito in questa struttura. Il riferimento è al trasferimento dei richiedenti asilo dalla Comina alla Casa dei Comboniani di Villaregia, rinviato per la necessità di completare alcuni adempimenti per garantire la sicurezza antincendio. Ognuno degli oltre 935.800 contribuenti IRPEF presenti in Friuli Venezia Giulia versa all'erario mediamente 4.290 euro all'anno. Pari a una pressione fiscale che di fatto raggiunge il 47,4%. I dati sono dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Tenendo conto della bassa incidenza dell'economia sommersa e del lavoro nero, i contribuenti IRPEF della regione sono, a detta dell'Associazione degli Artigiani Mestrina, fra i più fedeli al fisco e sugli stessi grava una pressione fiscale reale di 5 punti più alta di quella ufficiale. A Gemone il maltempo ha indotto alla cancellazione del tradizionale corteo storico, ma nel Duomo si è tenuta la Santa Messa del Tallero, con il consueto scambio della moneta dalle mani del capitano del popolo al sindaco e successivamente offerta alla pieve come simbolo di scambio reciproco fra potere temporale e spirituale. A Gemona del Friuli tradizione rispettata, seppur non completamente. Come ogni 6 gennaio al Duomo di Santa Maria Assunta di Gemona si è svolta la tradizionale messa del Tallero che rinnova una tradizione pluriennale. Al suono delle trombe il sindaco Roberto Redolant, accompagnato dai nobili e dal Tallero, ha fatto il suo ingresso in Duomo. Annullato a causa del maltempo il tradizionale corteo storico che dal comune porta in Duomo. Durante la cerimonia il sindaco ha donato il tallero d'argento alla Chiesa, simbolo di concordia e collaborazione tra i poteri temporale e spirituale. Di intelligenza artificiale, amore e fratellanza ha parlato Monsignor Valentino Costante. Alla cerimonia era presente anche Delia Maria Rampino, sindaco dei giovani di Gemona, per sottolineare la vicinanza delle giovani generazioni alla tradizione. Presenta all'ingresso di Duomo un drappello con striscione dei comitati per l'ospedale gemonese. Gemona del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Cividale del Friuli è stata celebrata la messa solenne dello Spadone per rievocare i 658 anni dalla nascita di uno dei riti liturgici più suggestivi del mondo cattolico, durante la quale il sacerdote celebrante saluta i fedeli impugnando con la mano destra la spada e con la sinistra l'evangeliario, simboli del potere temporale e spirituale del patriarca. Alle 10.30 nel Duomo della Città Ducale si è tenuta la messa officiata dall'arciprete Monsignor Livio Carlino. Anche a Cividale la tradizionale rievocazione storica in costume dell'entrata del patriarca Marquando von Randeck è stata annullata a causa del maltempo. Una navigazione costantemente verso ovest, attraversando 3 oceani e toccando 52 porti di 34 nazioni. È il giro del mondo in 4 mesi, a bordo di Costa Deliziosa, la nave da crociere aggiunta a Trieste all'alba, è pronta a ripartire alle 17 con oltre 2.000 passeggeri a bordo per un viaggio lunghissimo e che si concluderà sempre qui in maggio. Sentiamo il comandante dell'unità, Carmine Maddaloni. È un'emozione enorme dal punto di vista professionale e, come avete detto lei, oggi parte il giro del mondo. Tanti passeggeri lo hanno sognato, lo hanno voluto e adesso arriva il momento. Alle 17 partiamo e si parte per questo giro del mondo che dura 134 giorni. Lo stesso è per i passeggeri ma anche per l'equipaggio. Tutto l'equipaggio è ben contento di muoversi in questa esperienza. È un'esperienza unica, è un viaggio unico, è un viaggio speciale ed è anche un buon riscontro dal punto di vista di passeggeri. Siamo quasi pieni, siamo intorno ai 2.000 passeggeri, diverse nazionalità come diverse nazionalità del crew. Passeggeri avremo maggioranza francesi, tedeschi, italiani e spagnoli, raccogliamo un po' tutte le nazionalità europee. cominciamo oggi, poi transitiamo verso Savona, quindi faremo Catania, Napoli, Savona e poi da lì ci muoviamo verso la Francia, la Spagna, il Marocco, attraversiamo l'Atlantico e punteremo verso il canale di Panama, transiteremo il canale di Panama per poter poi visitare Cile, Ecuador, Perù, per poi puntare verso sud, verso l'Australia. A quel punto con le isole della Polinesia, a questo punto poi si rientra verso nord, quindi verso Giappone, la Corea e di nuovo si punta verso ponente per Taiwan, Hong Kong, Singapore per poi rientrare in Mediterraneo. Rientriamo l'11 maggio a Venezia. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. La grotta gigante di Sgonico ospita la tradizionale festa della Befana. Gli speleologi si caleranno in costume dalla volta per raggiungere gli spettatori radunati sul fondo della grande caverna. Sulle note di una banda arriverà la Befana, accompagnata da Re Magi, Babbo Natale, Stella Cometa e i mitici Mucco Cervi. Dolce caramelle per i bambini, l'intramontabile Gran Pampel per gli adulti, offerto da un gruppetto di vichinghi. L'appuntamento è alle 15. Un po' di sport, basket, in A2 Udine e Cividale in campo stasera per affrontare le due squadre che condividono il primo posto in classifica. Udine va a Bologna per giocare alle 18 sul parquet della Fortitudo. Cividale invece riceve Forlì al Palagesteco, la partita alle 20. Bologna e Forlì sono appaiate a 28 punti, Udine terza a 26. In campo domani la Pallacanestro Trieste, che al Palarubini alle 18 giocherà contro Piacenza. In classifica Trieste è quarta, 24 punti, Piacenza sesta a 18. Per la A2 di pallavolo maschile oggi a Pordenone si gioca Prata-Siena, inizio alle 20:30. Trieste è alle prese con la corsa della Bora e con la strada costiera chiusa fino alle 19:30 fra la nuova rotonda di Sistiana e il bivio di Miramare. 6 le gare in svolgimento fra il Carso e il centro cittadino. Primi arrivi previsti verso le 13 ed è imminente anche l'arrivo dell'Ipertrail, la maratona transfrontaliera da 164 chilometri, partita il 2 gennaio dal Castello di Lubiana. Circo Il Grito e il collettivo di scrittori Wuming incrociano i loro sentieri in L'Uomo Calamita, spettacolo di circo contemporaneo, magia, musica e letteratura. Spettacolari acrobazie, equilibrismo magnetico, colpi di batteria del compositore Cirro, Fabrizio Baroni, magie surreali, la voce dal vivo di Wuming 2 guida lo spettatore in una vicenda fra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Uomo Calamita è la storia di un supereroe che combatte l'assurdità della guerra tra funambolismi del corpo e della parola. Alle 17 al Teatro Palamostre di Udine. Assistenza tecnica di Roberto Cavallari e Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Per il momento è tutto, la nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.